Due pesi e due misure. Leggo nella Bibbia, in Prima Re capitolo 15, versetti 11 a 13. Asa fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, suo padre. Eliminò dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti, e destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva innalzato un'immagine ad Astarte. Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente Chidron. Leggo in 1 Timoteo 5:21. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Leggo ancora in Giacomo 2:1. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Un uomo un giorno si recò dal suo superiore per fargli notare che alcune persone stavano ricevendo un trattamento privilegiato rispetto agli altri e si sentì rispondere: se tu fossi il padrone di questa azienda e potessi scegliere se dare una promozione a tuo figlio, a tuo cugino o a tuo nipote, piuttosto che ad uno sconosciuto, a chi daresti la promozione? L'uomo rispose: darei la promozione al più meritevole. Il suo superiore lo guardò negli occhi e gli rispose: sei proprio sicuro? Ad essere sinceri, l'uomo non era tanto sicuro. Preferì non rispondere e tornò in silenzio al suo lavoro. In Italia, purtroppo, il fenomeno del nepotismo è molto diffuso. Chi detiene un potere in qualunque ambito tende a favorire i propri parenti se ne ha la possibilità, indipendentemente dalle loro reali capacità. Ma anche all'estero non si scherza. Da Wikipedia ho appreso che l'attuale record di nepotismo tra i capi di Stato è detenuto dal presidente Maumoon Abdul Gayoom delle Maldive, che conta almeno 11 parenti e amici nel suo gabinetto, oltre a numerosi altri nei più alti incarichi di governo. Dobbiamo ammettere che è molto difficile non mostrare favoritismo quando sono coinvolte delle persone a noi particolarmente care. Ciò che mi ha colpito di questo brano biblico inerente il re Asa è proprio la sua fermezza nel combattere l'idolatria, che lo portò a non fermarsi neanche di fronte ad una delle persone che sicuramente gli erano più care, sua madre. Sua madre aveva eretto una immagine ad Astarte. Asa avrebbe potuto distruggere la statua di Astarte senza destituire sua madre, ma Asa stava combattendo l'idolatria e sua madre, come regina, aveva trascinato molti in questo peccato. Era quindi giusto destituirla e Asa fece proprio così. Quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di fare una cosa del genere? Non è facile essere immuni da favoritismi, perché il pericolo di avere due pesi e due misure è sempre alle porte. Non è facile saper valutare le cose per ciò che sono, indipendentemente dal legame che abbiamo con le persone coinvolte. Anche di fronte al peccato, è molto facile puntare il dito quando lo vediamo nelle famiglie altrui, ma è molto difficile mantenere la stessa fermezza quando sono i nostri cari a cadere nel medesimo peccato. Tendiamo ad avere un occhio più benevole e tollerante verso coloro che amiamo di più. Questo è un pericolo a cui nessuno di noi è totalmente immune. Nel mondo che ci circonda è normale avere due pesi e due misure, ma come cristiani dobbiamo imparare a distinguerci anche in questo, in tutti gli ambiti della nostra vita. Chiediamo al Signore di guidarci a lasciare da parte favoritismi e parzialità e ad essere pronti a valutare ogni cosa in maniera sincera e trasparente.